Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. In questa puntata, scoprire la violenza in se stessi. Incontro con Gianrico Carofiglio sul suo ultimo romanzo, Il bordo vertiginoso delle cose. Dal 10 dicembre il Courmayeur Noir in Festival. L'anteprima del domenicale in edicola domani con Il Sole 24 Ore. Si intitola Il bordo vertiginoso delle cose, dell'ultimo romanzo scritto da Gianrico Carofiglio, pubblicato da Rizzoli. Un romanzo che a tratti è veramente duro, poi vi spiegheremo anche il perché, vi spiegheremo meglio la trama. Diciamo che è un romanzo che alterna momenti di respiro, momenti di dolcezza quasi, a momenti invece di asprezza proprio. È la storia di un uomo, Enrico, che un giorno, sfogliando un giornale, legge ed è colpito da una notizia. C'è stata una rapina, un rapinatore è stato ucciso e in seguito a questa cosa lui decide di partire, di lasciare Firenze e di tornare nella sua città d'origine, Bari. In questo ritorno ci sarà naturalmente un ritorno fisico, ma soprattutto un ritorno mentale al suo passato. Enrico farà proprio un viaggio dentro se stesso e si ricostruirà la sua storia di bambino e di ragazzino. Gianrico, partiamo allora da Enrico. Chi è questo signore? È vero, incontriamo Enrico in due momenti molto diversi della sua vita. L'Enrico di oggi è un uomo separato da se stesso, un uomo che ha conosciuto una delle forme più dolorose di fallimento, che è quella di chi sperimenta il successo, vede la realizzazione del sogno della sua vita, nel suo caso quello di fare lo scrittore, e poi vede questo sogno dissolversi subito dopo, perché dopo il primo romanzo lui non riesce più a scrivere, non riesce più a scrivere con il suo nome, perché invece gli riesce di fare lo scrittore sotto pseudonimo, di fare il ghostwriter, di fare l'autore fantasma per biografie di calciatori o di cantanti o altro. Questa cosa gli pesa parecchio, insomma lui si vergogna del fatto che insomma ha avuto un grandissimo successo, era in classifica, tutti gli chiedevano di interviste e così via, e all'improvviso nessuno lo considera più. Sì, la questione più dolorosa, oltre agli aspetti esterni del successo, la classifica, le interviste e così via, è quella dell'aver perso il senso di sé come uomo nato per raccontare delle storie, come gli era stato detto tanto tempo prima dalla professoressa di liceo di cui lui si innamora e che è parte fondamentale della storia di Enrico nel passato. Lui è un uomo separato da sé perché non riesce più a fare quello per cui riteneva giustamente di essere nato, scrivere e raccontare delle storie. Questo romanzo è scritto un po' a capitoli alternati. Si segue la vita di Enrico al tempo, diciamo, attuale, quando lui torna a Bari, e si usa uno stile, cioè è raccontato in prima persona e lui stesso si rivolge col tu. Tu stai facendo questo, tu stai camminando per strada, eccetera. E poi ci sono i capitoli dove invece si ricorda la vita passata di Enrico, che sono scritti invece in un'altra maniera, insomma. Perché hai fatto questa scelta? Perché è molto incisiva, cioè quando Enrico parla con se stesso si ha proprio l'idea di entrare dentro il personaggio. La scelta, come in molti casi, è stata casuale, o forse non casuale, ma apparentemente accidentale. Stavo scrivendo da parecchi mesi il romanzo e quella parte era scritta in modo diverso, con una, come dire, molto più tradizionale terza persona. E poi un giorno mi è capitato, senza che me ne accorgessi, di scrivere una pagina in seconda persona, cioè con il narratore che si dà del tu. È una cosa che facciamo tutti quanti qualche volta. Come no, anche quando ci parliamo da soli. Insomma. Quando ci parliamo da soli, soprattutto quando non siamo d'accordo con noi stessi. Che cosa stai combinando, ci capita di dirci quando facciamo o stiamo facendo una fesseria. Ecco, il protagonista di questo romanzo, io l'ho capito per effetto di questo inciampare casuale nella forma con il tu, è soprattutto un personaggio che non è d'accordo con se stesso, è un personaggio che è separato da se stesso, e tutta la storia, tutto il romanzo, presente e passato, ci dice del tentativo di recuperare quella unità perduta, quel tentativo di ridiventare se stesso, quel se stesso che voleva scrivere storie e che era capace di farlo. È proprio un viaggio dentro se stesso, dentro il suo passato, dentro la sua storia. Secondo me è proprio questo darsi del tu, è come un po' mettere allo specchio se stessi e dire ok, cosa ho fatto fino a questo momento e che cosa volevo essere. Questa storia è anche una storia di violenza, perché Enrico ricorda di quando, appunto, da piccolo, da ragazzino, si era allenato con un suo compagno di classe più grande, Salvatore, col metodo cubano, poi ci dirai bene di che cosa si tratta. Ma è bello proprio il passaggio dove da ragazzino nell'oratorio lui scopre dentro di sé la violenza. E tu scrivi: da quel pomeriggio all'oratorio qualcosa era cambiato e nulla sarebbe tornato come prima. Quei pugni in faccia mi avevano fatto intuire una parte di me, una creatura sconosciuta e in agguato nella penombra, cui non mi piaceva pensare. Nell'oratorio Enrico ha uno scontro, insomma, con un amico e per la prima volta reagisce con le mani. Che cosa scopre di sé? Sì, in realtà lui neanche se ne accorge, neanche se ne rende conto. C'è un litigio per una questione di calcio, di quei litigi che al massimo finivano a spintoni, e lui prende a pugni in faccia l'altro ragazzo. E dopo è sconvolto da questo gesto che è sfuggito al suo controllo e, per l'appunto, ripensando a questo episodio, dice: avevo scoperto qualcosa di me cui non mi piaceva pensare. Credo che molto sia del senso di questa parte della storia in quella frase, un atteggiamento ambivalente, diciamo, per opposti nei confronti della violenza, di una strana attrazione o una strana propensione e al tempo stesso una repulsione, un disgusto. Beh, un po' il titolo del tuo romanzo, il bordo vertiginoso delle cose, cioè l'attrazione per qualcosa che magari razionalmente si respinge. È così, è molto presente nel romanzo questo atteggiamento ambivalente rispetto a molte cose della vita, fra cui la violenza, ma per esempio l'amore, la passione per le idee, i rapporti con le persone e tanto altro. I bordi vertiginosi delle cose sono tutti quei crinali di cui non ci rendiamo conto, ma dei quali è disseminata l'esistenza quotidiana e che a volte vediamo all'improvviso attraverso le crepe della banalità del quotidiano. Tra l'altro, le ricordiamo, questo titolo è tratto da un verso di una poesia, insomma. Sì, di Robert Browning. Anche il verso, come la forma del tu, sono venuti in corso d'opera casualmente, qualunque cosa significhi casualmente. Il tema del caso e di come il caso sia un modo, diciamo, di mascherarsi di altro è molto presente. È molto presente in questo romanzo. Dicevamo, Enrico poi mette in pratica, insomma, da sfogo a questo suo istinto di violenza, perché inizia ad allenarsi con un suo compagno di scuola, Salvatore. Dicevo prima, il metodo cubano, cioè fanno un allenamento che è proprio dei militari cubani. Tu hai detto anche in altre interviste che questo è il nocciolo, diciamo, più autobiografico di questo tuo romanzo. Uno non se l'aspetterebbe da te, insomma, un uomo così per bene, così razionale, così pacato, eppure hai avuto nel tuo passato dentro di te una spinta alla violenza. Insomma, noi, quando dico noi intendo io e i miei amici, siamo stati ragazzini in un periodo in cui la violenza per strada era più frequente di quanto non sia adesso. C'era la violenza politica, ma c'era anche la violenza, come dire, ordinaria. Noi abitavamo su una specie di linea di confine fra due quartieri di estrazione sociale molto diversa, e se attraversavi quella linea di confine dovevi essere consapevole dei rischi che questo comportava. E quando i rischi si materializzavano c'erano due scelte: o scappavi o ti battevi. La mia opinione da uomo adulto è che ci voglia più coraggio e sicurezza di sé per scappare che non per rimanere, e infatti con ogni probabilità io non avevo abbastanza coraggio per scappare. Di molte situazioni di questo tipo per strada è fatta la mia adolescenza e, come posso dire, il mio percorso di crescita. Credo che sarei diverso, non so se migliore o peggiore, se queste cose non mi fossero capitate. E naturalmente non mi sognerei mai di raccomandare un tirocinio di violenza. Certo, di violenza per però strada. Non c'è dubbio che l'esserci passato tu attraverso... Tu sei figlio anche di quella cosa lì, insomma. Sì, sì, però come il tuo protagonista, come Enrico, hai fatto un viaggio dentro te stesso per capire il perché di quella cosa? Io davvero lo dico come una battuta, ma con ogni probabilità la verità, il nucleo di verità è proprio lì. Ero troppo insicuro, troppo spaventato di quello che mi succedeva attorno nel mondo, non soltanto in quelle specifiche situazioni, per scappare. Un modo per tentare di trovare un nucleo di me stesso era proprio quello di affrontare, a volte in maniera del tutto temeraria o incosciente, alcune situazioni, a volte di accettare provocazioni che sarebbe stato ovvio lasciar cadere. È passato attraverso questi meccanismi, diciamo, il mio diventare adulto, e io credo che queste cose, cioè questa esperienza che è durata qualche anno, è passata anche attraverso la pratica di sport, di combattimento e di altre cose, abbia influenzato molto, diciamo, chi sono adesso, ma anche indipendentemente da questo specifico libro, il modo in cui scrivo e le cose di cui parlo. Secondo te guardare in faccia un problema come può essere la tentazione all'uso della violenza, questo bordo vertiginoso delle cose, questa attrazione, è quindi sempre positivo? Cioè riesci poi ad affrontarla come persona in modo razionale se hai il coraggio di guardarla in faccia? Sicuramente, devi guardarla in faccia. Se la guardi in faccia, se sei capace di nominarla, cioè di darle nome e cognome, di capire da dove viene più o meno e capire dove va più o meno, è più facile che non ceda, come dire, a quella provocazione, che è una provocazione soprattutto interiore. Non è un caso che i ragazzi più violenti, veramente violenti, noi facevamo botte, certo, niente come di più, ragazzini per strada, ma certo, che i ragazzi più violenti, i delinquenti minorili che commettono atti estremi di violenza, siano quelli più sprovvisti di strumenti lessicali, più incapaci di mettere a parole le loro frustrazioni, le loro paure, le loro rabbie. Più sei capace di dirla una cosa, meno sei costretto ad agirla. Il ricorso alla violenza fisica, ora sto semplificando, è molto spesso l'esito di una carenza in altri ambiti, e il principale di questi ambiti è quello delle parole, di essere muniti delle parole per dirlo. Certo che guardando in faccia questo tipo di attitudine, che poi ha a che fare anche con le caratteristiche individuali, è possibile, come posso dire, governarla e trasformarla in altro, per esempio anche in benzina, in carburante per la scrittura, buona spero. Questo è anche un romanzo che ha una storia d'amore, perché Enrico ricorda di quando da ragazzino, insomma al liceo classico flacco di Bari, si era innamorato della professoressa di filosofia, Celeste. Questa è una storia che viene seguita durante tutto il romanzo, è una storia che non viene vissuta ma ha un valore fortissimo nella vita di Enrico. Io credo che in qualche modo venga anche vissuta, si tratta di intenderci, diciamo, che cosa su che cosa vogliamo dire. L'incontro con Celeste, così come l'incontro con Salvatore, che è l'amico che gli insegna a fare a botte, sono i due poli di questo anno straordinario in cui la vita di Enrico ragazzo cambia. L'innamoramento per Celeste è certamente l'innamoramento per una donna giovane, bella e affascinante, ma è anche e soprattutto l'innamoramento per una idea di pensiero, mi si passi l'espressione, cioè per un modo di concepire il pensiero, l'approccio ai libri, alla filosofia, alle parole. Lei insegna filosofia e fa vedere a questi ragazzi, a Enrico in particolare, che cosa si può fare con la filosofia. In questo libro c'è anche molto Bari. È vero che tutti i romanzi sono ambientati in una città. Nell'ultimo Il silenzio dell'onda l'avevi ambientato a Roma, facevi dei riferimenti, però non erano così presenti in maniera quasi ossessiva come in questo Il bordo vertiginoso delle cose, che è ambientato a Bari, abbiamo detto. Tu citi proprio le vie, le strade. Come mai questa? È chiaro che è un atto voluto, insomma, non è casuale. Perché? Ci sono dei passaggi del libro in cui il percorso del protagonista attraverso il reticolo delle strade della città viene seguito con estrema attenzione, ma viene seguito con estrema attenzione da lui per primo, perché il ripercorrere quelle strade è un modo per cercare di fermare la coscienza e di reinterpretare un passato che è andato via e che lui sta cercando di ricostruire. Le strade, la città, sono metafora di quel passato, ma anche in qualche modo strumento per cercare di rievocarlo. È per questo che in alcuni punti, non certo in tutto il libro, il percorso del protagonista viene seguito, diciamo, per una o due pagine in maniera così quasi ossessiva, come hai detto tu, è vero, perché è come se lui cercasse di aggrapparsi a qualche cosa che gli sfugge da tutte le parti per cercare di recuperare il passato e per capire che il passato non si recupera, tutt'al più lo si racconta di nuovo anche a se stessi in modo diverso ogni volta. Alcune delle riflessioni più profonde che Enrico fa rispetto alla sua vita sembrano quasi nascere da incontri casuali, con una clochard, una barbona che lui incontra a Bari, con un ex professore che in quel momento sta pescando, quindi fa il pescatore. Come mai hai voluto scegliere questi personaggi apparentemente di secondo piano? No, sono personaggi fondamentali, hai detto infatti, bene, apparentemente è molto opportuno l'avverbio, perché sono tutti questi personaggi, gli incontri con questi personaggi, come posso dire, quasi delle tappe di un percorso iniziatico, se mi si passa l'espressione. Lui è alla ricerca di qualcosa, attraversa un territorio straniero, un territorio sconosciuto, che è quello della sua città che lui non conosce più e del suo passato che è costretto a ricostruire, e in questo percorso quasi iniziatico incontra delle figure che in modo diverso gli spiegano delle cose, glielo spiegano esplicitamente in qualche caso, come per quanto riguarda il professore, o con il loro esistere, con il racconto diretto e indiretto della loro esperienza, come nel caso della clochard o dell'amica Stefania, o anche del ragazzo che vuol fare lo scrittore e che lui incontra proprio verso la fine della storia e che, come posso dire, è protagonista di un piccolo colpo di scena che prelude al grande colpo di scena del finale, che naturalmente non diciamo. Però un colpo di scena adesso ce lo devi garantire, almeno credo, non lo so. Insomma, a tutti gli scrittori di personaggi seriali la domanda è sempre quella: quando torna il tuo avvocato Guerrieri? Dai, dacci uno scoop. No, lui mi ha fatto una telefonata giorni fa e pare che sia intenzionato a farsi vedere l'anno prossimo. Ah beh, questa è una notizia, allora grazie di avercela data. Grazie. Grazie a Gianrico Carofiglio, ora in libreria con Il bordo vertiginoso delle cose, pubblicato da Rizzoli. È arrivato il momento di parlare del Courmayeur Noir in Festival, un appuntamento imperdibile per chi ama il genere. Oltre ai film, al Festival di Courmayeur si parla molto di libri noir. Da martedì 10 a domenica 15 dicembre sarà dunque possibile incontrare scrittori come lo svedese Henning Mankell, il creatore della serie del commissario Kurt Wallander, lo ricordiamo, pubblicata in Italia da Marsilio. A lui verrà consegnato un premio, il Raymond Chandler Award. Spazio anche per gli italiani, come per esempio Giancarlo De Cataldo, il famosissimo autore di romanzo criminale, ora è invece in libreria con un altro romanzo che si intitola Suburra. E allora, per sapere che cosa ci aspetta al Courmayeur Noir in Festival, abbiamo fatto una chiacchierata con Marina Fabbri, che per il Festival si occupa della sezione libri. Quest'anno, come tutti gli anni, il Festival fa una ricognizione nel mondo del noir per vedere un po' come gli scrittori contemporanei reinterpretano quello che è un genere ormai sulla breccia da parecchio tempo, direi. Sappiamo che il noir è la fotografia della nostra società contemporanea e che sempre di più diventa proprio un prisma per vedere quello che non funziona nel nostro mondo, e quest'anno, diciamo, la tradizione si ripete. E il percorso che facciamo nel mettere insieme gli scrittori è un percorso che sembra casuale, perché nasce un po' dalle novità editoriali che si affacciano sul nostro mercato nell'anno, però poi alla fine disegnano una sorta di mappa, in questo caso è proprio quasi una mappa geografica, nel senso che abbiamo intanto dei rappresentanti di delle due città che sono al centro del nostro tema dell'anno, cioè Roma e Milano. Quest'anno il convegno l'abbiamo intitolato Le mani sulle città, citando insomma il grande film di Francesco Rosi, Le mani sulla città, che parlava di Napoli, e noi invece parliamo di come la criminalità si è impadronita della nostra economia in Italia attraverso i casi proprio delle maggiori città, cioè di Roma e di Milano. C'è stato negli ultimi anni un cambiamento nel genere noir, come dire, ci sono stati dei guizzi di originalità, c'è stata un'evoluzione nel genere? Sì, naturalmente l'evoluzione c'è, perché essendo un genere appunto plasmato dalla realtà, plasmato dal tempo, è chiaro che gli scrittori contemporanei difficilmente scrivono come scriveva Raymond Chandler o Dashiell Hammett, però devo dire che è ambivalente il genere, perché da una parte sì, guardano la realtà e quindi ci sono delle incursioni anche linguistiche del presente, soprattutto negli scrittori più giovani ovviamente, dall'altra però il genere è così strutturato e ha delle regole molto strutturate, che insomma da una parte sono quelle del giallo, dall'altra sono quelle appunto della introspezione psicologica, che effettivamente possono rimandare anche stilisticamente a un Chandler o a un Hammett, perché no? Ecco, quindi c'è una sorta di continuità nella diversità. Ecco. Il noir è sicuramente un diverso modo per guardare la realtà e i fatti che ci circondano. Tra l'altro al Courmayeur Noir in Festival viene assegnato il premio più importante, diciamo, della categoria di questo romanzo di genere, che è il premio Scerbanenko. Sì, il premio Scerbanenko è, come lo denuncia anche il nome, che essendo intitolato a quello che viene considerato il padre tutelare, insomma, del giallo e del noir in Italia, cioè Giorgio Scerbanenko. In particolare proprio ci teniamo alla sottolineatura noir, perché Scerbanenko non scriveva soltanto dei semplici gialli o alla Maigret, per intenderci, o alla Sherlock Holmes, alla Conan Doyle, ma con le sue introspezioni sul personaggio dell'ispettore Duca Lamberti e con le sue descrizioni di quella Milano degli anni 60, raccontava proprio appunto un mood, una società. Ecco, cerchiamo di rintracciare questa eredità anche negli scrittori che presentiamo nel concorso. E i 5 finalisti del premio Scerbanenko, lo ricordiamo, sono Donato Carrisi, Marco Malvaldi, Massimo Gardella, Simone Sarasso e Claudio Paglieri. Compie 500 anni il Principe di Machiavelli e per questo il domenicale, l'inserto culturale del Sole 24 Ore domani in edicola, gli ha dedicato la storia di copertina. Armando Massarenti, allora, in che modo parlate del Principe? Ma ne parliamo con l'edizione che ha realizzato l'editore Donzelli, si presenta come un'edizione che vuole togliere da Machiavelli tutte le incrostazioni ideologiche che hanno caratterizzato le interpretazioni di questi, soprattutto degli ultimi due secoli. E anche una versione, diciamo, in italiano corrente. Anche, esatto, c'è un apparato fenomenale dal punto di vista delle annotazioni da parte del curatore, che è Gabriele Pedullà, che è un nostro collaboratore, al quale abbiamo chiesto di scrivere un articolo che spieghi appunto in che termini Machiavelli può diventare, diciamo, da personaggio importantissimo per tantissimi usi, diciamo, anche ideologici, e ridiventare invece il Machiavelli per il ventunesimo secolo, cioè quindi liberandolo da tutte le letture che facevano però somigliare sempre il Machiavelli a chi faceva appunto quel tipo di rilettura. Le note, cioè, o meglio, la riscrittura in italiano moderno, tra virgolette, ma insomma per rendere assolutamente fruibile questo classico, è proprio di Carmine Donzelli. Un esperimento simile peraltro era già stato fatto da Piero Melograni tanti anni fa. Questo è un tentativo di mettere un po' tutto insieme, edizione critica, un commentario che fa vedere quali sono tutte le fonti di Machiavelli, i classici, le sue letture e la possibilità di leggerlo per i tempi in cui viviamo oggi. Grazie ad Armando Massarenti, questo è quanto troverete, questo ed altro è quanto troverete domani in edicola con il domenicale del Sole 24 Ore. Anche per oggi è tutto, grazie in regia a Pietro Lacorte. Vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri su www.radio24.it. Ci trovate su Facebook e anche su Twitter come Ale Teddina. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.